It's good to see everybody again. È così bello vedere ognuno di voi oggi. In America, today is Father's Day. In America oggi è la festa del papà. So I have five children and they wrote me little cards. Io ho cinque figli e ognuno di loro mi ha scritto un pensiero. My youngest is 15. Il più giovane, il più piccolo, ha 15 anni. And my oldest is 28. E il più grande ha 28 anni. And the last time that I came here 4 years ago was the birth of my first grandchild. E l'ultima volta che sono venuto qui era 4 anni fa, era il compleanno del mio primo nipote. And when I got here on Wednesday, e quando sono arrivato questa volta qui mercoledì, we had the birth of my first grandson. È nato il mio primo nipotino. Yeah. Maschietto, perché gli altri sono femminucce. So my wife says I'm going to send you to Italy more often so we can have more grandchildren. E quindi mia moglie ha detto devo mandarti in Italia più spesso così possiamo avere più nipoti. I love this church so much. Io amo questa chiesa. It's been fun to watch you grow and change over the years. È stato così bello vedervi crescere nel corso degli anni. You have always been so welcoming to us. E nei nostri confronti siete stati sempre di così tanta accoglienza. And this week we brought a team with us from Phoenix, Arizona. E questa settimana è venuto con me un team da Phoenix in Arizona. And it's Compass Christian Church. E si chiama Compass Christian Church. And I'd like to have them stand right now. E mi piacerebbe che si alzassero. Can you welcome them this morning? E possiamo dar loro il benvenuto. I spent the last couple days. Abbiamo trascorso gli ultimi due giorni with your pastor Mirko, con il vostro pastore Mirko and all of the pastoral leadership team. E tutta la squadra pastorale. I hope you understand how incredibly blessed all of you are. E io spero che vi rendiate conto di quanto siete benedetti. To have a team that loves you so much. Nell'avere una squadra che vi ama così tanto. They pray for you. Loro pregano per voi. And they dream about what God has for this place. E sognano di quello che Dio ha in serbo per questo posto. And they love God with all their heart. E loro amano Dio con tutto il loro cuore. And with a team like that, e con una squadra come questa, and a congregation like all of you, e una chiesa, una congregazione come tutti voi, I know that God is going to do great things in this place. Io so che Dio farà cose grandiose in questo posto. Today I want to talk to you about one of the stories from the Bible. Oggi voglio parlarvi di una delle storie che leggiamo nella Bibbia. And it's a story that talks about an event with Jesus. Ed è una storia che racconta di un evento con Gesù. And after these people had an encounter with Jesus, e dopo questi protagonisti della storia, dopo che loro hanno avuto un incontro con Gesù, the people said something that I hope one day people will say about this church. La folla ha detto qualcosa che spero un giorno la società potrà dire di noi. The passage is in Mark 2, verses 1 through 12. Il passo che leggeremo si trova in Marco 2, dal versetto 1 al versetto 12. Dopo alcuni giorni, Gesù entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe che era in casa e si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Egli annunziava loro la parola e vennero a lui alcuni con un paralitico portato da 4 uomini. Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù e, fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Erano seduti là alcuni scribi e ragionavano così in cuor loro: perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Ma Gesù capì subito con il suo spirito che essi ragionavano così dentro di loro e disse: «Perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Che cosa è più facile? Dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico», e disse al paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua». Il paralitico si alzò subito, prese il suo lettuccio e se ne andò via in presenza di tutti. Sicché tutti si stupivano e glorificavano Dio dicendo: «Una cosa così non l'abbiamo mai vista». I want us to focus on that last line. Vorrei che ci concentrassimo sull'ultima frase. They were all amazed. Erano tutti meravigliati. And they were glorifying God. E stavano tutti glorificando Dio. Because they had never seen anything like this before. Perché non avevano mai visto una cosa simile prima d'allora. It's a familiar story. È una storia che conosciamo. Jesus was in town and he was teaching again. Gesù era in città e stava insegnando. And there were crowds coming everywhere. E c'era la folla, una folla di persone che venivano da tutte le parti. But he was teaching in a home. Ma lui stava insegnando in una casa. And some friends had a friend of theirs that was paralyzed. E alcuni uomini avevano un amico che era paralizzato. And they heard about these things that Jesus could do. E loro avevano sentito delle cose che Gesù poteva fare. And they said, "We have to bring our friend to Jesus." E si sono detti: dobbiamo portare il nostro amico da Gesù. But it was so crowded. Ma c'era così tanta folla. That they couldn't get him in. Che loro non potettero far spazio, far entrare il loro amico. But they were so desperate for their friend to see Jesus. Ma loro volevano così disperatamente che il loro amico vedesse Gesù. That they climbed up onto the roof. Che si arrampicarono sul tetto di questa casa. Dug a hole in the roof. Lo scoperchiarono, fecero un buco. And lowered their friend down to see Jesus. E calarono il loro amico affinché lui potesse vedere Gesù. When Jesus saw him, quando Gesù lo vide, and when he saw the faith of his friends, e quando vide la fede dei suoi amici, Jesus said, "Your sins are forgiven you." Gesù disse: i tuoi peccati ti sono perdonati. Of course, the religious leaders of the place, the scribes. E certamente vediamo gli scribi che erano gli uomini religiosi in quel da quel tempo. They said, "Who are you? Who are you to forgive sins? Only God can forgive sins." Hanno incominciato a dire: "Ma chi sei tu che puoi perdonare i peccati? Solo Dio può perdonare i peccati." Jesus, knowing what was in their heart. E Gesù sapeva che cosa questi scribi stessero pensando nel loro cuore. Said to them, "Which is easier?" E quindi gli ha detto: qual è la cosa più facile? To say your sins are forgiven you? Dire: i tuoi peccati ti sono perdonati? Or pick up your mat and walk home. Oppure prendi il tuo lettuccio e vai a casa tua. Alzati e vai a casa tua. And Jesus told the man. E Gesù disse a quell'uomo. To pick up his mat. Di prendere il suo lettuccio. And walk home. E di camminare verso casa sua. Here comes that last line again. E qui c'è quell'ultima frase che abbiamo letto. And they were amazed. Tutti ne furono meravigliati. And they glorified God. E incominciarono a glorificare Dio. Because we have never seen anything like this before. Perché non avevano mai visto nulla del genere prima d'allora. Someone who was paralyzed. Qualcuno che era paralitico. Was brought to Jesus by some friends. Fu portato da Gesù da alcuni dei suoi amici. His life was changed. E la sua vita fu completamente cambiata. And the result was all the people were amazed. E come conseguenza è che tutti coloro che videro ne furono stupiti. I want you to think about something for a minute. Vorrei che pensassimo a qualcosa di particolare per i prossimi minuti. Who do you know that is paralyzed? chi conosci nella tua vita che è paralitico, paralizzato? It may not be a physical paralyzed. Probabilmente non si tratta di una mancanza fisica. But who do you know that might be paralyzed by fear? Ma chi conosci che è paralizzato, per esempio, dalla paura? Or paralyzed by a lack of finances. O paralizzato da una difficoltà finanziaria. Who do you know that might be having difficulties in their marriage? Chi conosci che magari sta affrontando difficoltà nel matrimonio? Or difficulties with their children? O difficoltà con i loro figli? Maybe some of you are paralyzed by fear. Forse qualcuno di voi si ritrova ad essere paralizzato da qualche paura. Maybe some of you are dealing or struggling with something that paralyzes you. Forse qualcuno tra di noi sta combattendo con una qualche difficoltà che ti paralizza. Jesus is hoping that you will do whatever it takes. Gesù sta sperando che tu possa fare qualsiasi cosa sia necessaria to bring that friend to see Jesus. Per portare quell'amico a vedere Gesù. To bring that friend to meet Jesus here in this place. A portare quell'amico qui affinché lui possa incontrare Gesù. And when they do meet Jesus, e quando loro incontrano Gesù, Jesus will say to them, Gesù dirà loro, your sins are forgiven. I tuoi peccati ti sono perdonati. Pick up your mat and walk. Prendi il tuo lettuccio e cammina. Whatever is paralyzing them. Qualsiasi cosa sia la causa di questo sentirsi paralizzati. Whatever is paralyzing you. Qualsiasi cosa ti stia paralizzando. When you meet Jesus. Quando tu incontri Gesù. He says, pick up your pallet and walk. Lui ti dice, prendi il tuo lettuccio e vai, cammina. And all of the people. E tutte le persone. Will be amazed. Ne rimarranno meravigliate. Because they have never seen anything like this before. Perché non hanno mai visto una cosa del genere prima d'ora. Now we've seen this before. Ora noi sì, noi abbiamo visto questo prima d'ora. You've had people come up on this stage and share how Jesus has changed their lives. Voi avete sentito persone predicare da questo palco quanto Dio ha cambiato la loro vita. But the heroes of this story is not the one who whose life was changed. Ma l'eroe di questa storia non è la persona la cui vita è stata cambiata. The hero of this story was the friends. Gli eroi di questa storia erano gli amici. Because when Jesus saw their faith, perché quando Gesù vide la loro fede, that moved Jesus to heal the man. È quella che mosse Gesù a guarire il paralitico. And I'm sure that everywhere that that man went. E sono sicuro che dovunque questo uomo poi sia andato, his story started with, la sua storia è incominciata con, my friends brought me to meet this man. Con questa frase, i miei amici mi portarono a vedere Gesù. And it changed my life. E quello ha cambiato la mia vita. I'm sure most of the people in this room were invited by somebody. Sono sicuro che la maggior parte delle persone in questa stanza è stata invitata da qualcuno e poi ha incontrato Gesù. They may have just invited you to church. Probabilmente ti hanno invitato a venire in chiesa. You may have known Jesus or you may not have. Forse già conoscevi Gesù o probabilmente non avevi mai sentito parlare di lui. But when you met Jesus here, you were changed. Ma quando hai incontrato Gesù qui, la tua vita è stata cambiata. Jesus died for all of us. Gesù è morto per ognuno di noi. The good and the bad, le persone buone e le persone meno buone. The paralyzed and the unparalyzed, i paralitici e quelli invece che non sono paralitici. And Jesus is desperately waiting for some friends. E Gesù sta aspettando disperatamente per quegli amici. For you, per te ti sta aspettando. To bring your friends to meet him. Sta aspettando che tu porta i tuoi amici ad incontrarlo. Whether that's bringing them to this place, forse portarli qui in questo posto. Or maybe it's to your small group. O forse nel tuo gruppo in casa. Or maybe it's just to your home. O forse solo a casa tua. Or maybe it's just a conversation over a coffee table at the bar. O forse si tratterà di una conversazione davanti a un caffè in un bar. Jesus wants you to invite them to meet Jesus. Gesù vuole che tu possa invitare i tuoi amici ad incontrare Gesù. Because he wants to heal them for whatever is paralyzing them. Perché lui vuole guarire ognuno di loro da qualsiasi cosa li stia paralizzando. You've heard this many times before. Probabilmente avete ascoltato questo tante volte. Jesus in Luke 15 tells a story about three things that were lost. Gesù in Luca 15 insegna tre storie di tre cose che erano perse. Let's look at the first one on the screen. Guardiamo insieme la prima. Luca 15:37. Ed egli disse loro questa parabola. Chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle e giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. I love that last line again. Mi piace tantissimo proprio l'ultima frase che abbiamo letto. There is more joy. C'è più gioia. More joy in heaven. Più gioia in cielo. Now there is joy in heaven because of all of us. È chiaro che c'è gioia in cielo per ognuno di noi. And God was felt loved today when we praised him. E Dio si è sentito amato dalla nostra adorazione questa mattina. But the Bible says there's more joy. Ma la Bibbia dice che c'è più gioia. When somebody from out there. Quando qualcuno da lì fuori. The one. Quel qualcuno. Comes in and meets Jesus. Viene qui e incontra Gesù. And joins the 99. E si riunisce alle 99. And Jesus tells a similar story about a woman who had 10 coins and lost one of them. E Gesù racconta una storia abbastanza simile di una donna che aveva 10 monetine e ne perde una, la dramma perduta. And she tore open her house and looked everywhere for it. E la vediamo nella storia che è rivolta tutta la casa per trovare quella monetina perduta. Until she found it. Fino a che la trova. And then she got excited again. E in quel momento si entusiasma e si rallegra. The Bible says in the same way. La Bibbia dice allo stesso modo. There is more joy. C'è più gioia. And the angels in heaven rejoice. E tutti gli angeli in cielo si rallegrano. Over the one who was lost. Per quel qualcuno che era perso. And brought him back to the 99 that were already there. E che è stato riportato insieme alle 99 che già erano lì. Now don't get me wrong. Ora, non fraintendetemi. Jesus loves you. Gesù ama te. He loves the 99. Lui ama le 99. You're in his family. Tu sei parte della sua famiglia. He gave his life for you. Lui ha dato la sua vita per te. He was willing to die on a cross for you. Lui è stato appeso ad una croce per te. And he wants you to continue to grow. E lui vuole che tu possa continuare a crescere. And to grow more in love with him. E di che ti possa innamorare sempre di più di lui. To be able to read your Bibles more. Che tu possa leggere la Bibbia sempre sempre di più. To meet with other people in small groups. Che possa incontrarti con i tuoi fratelli nei gruppi in casa. To serve in this church. Che possa servire la chiesa. But more than anything. Ma più di qualsiasi altra cosa. He wants you to know who your friends are. Lui vuole che tu sappia chi sono i tuoi amici. Who your family is. Chi sono quei componenti della tua famiglia. who the people you work with are. Chi sono quei tuoi colleghi? That don't know him. Che non conoscono Gesù. And he wants you more than anything to go and reach them. E lui vuole più di qualsiasi altra cosa che tu vada e che tu raggiunga queste persone. And fight the crowds. E che tu possa sorpassare, farti strada nella folla. And get onto the roof if you have to. Che possa arrampicarti sul tetto se necessario. Whatever that roof is for you. Qualsiasi sia quel tetto per te. And lower your friend to meet Jesus. E che possa calare i tuoi amici affinché loro possano conoscere Gesù. Jesus loved you enough to die for you. Gesù ti ha amato a tal punto da morire per te. He's hoping you love him enough to share others with him. E lui spera che tu possa amare Dio a tal punto da condividere il suo amore con tutti gli altri. Let me say that one more time. Lasciate che io ripeta questo. Jesus loved you enough to die for you. Gesù ti ha amato a tal punto da morire per te. He's hoping you love him enough to share that love with others. E lui spera che tu possa amare Dio a tal punto da condividere il suo amore con chi non lo conosce. And the result? E la conseguenza? The people will be amazed. È che le persone saranno stupite. The people in Modugno will look at this church and say, "What is happening in there?" Che le persone qui a Modugno guarderanno la chiesa e diranno, "Ma cosa sta succedendo in quel luogo?" When they see you in the park with your outreach. Quando ti vedono al parco durante gli eventi evangelistici. They will see that there's something different about these people. Loro vedranno che c'è qualcosa di diverso in noi. And God will draw them in. E sarà Dio a farli avvicinare. To forgive their sins. Per perdonare i loro peccati. And to tell them to pick up their mat and walk. Per dire loro di prendere il loro lettuccio e di camminare. The people were amazed. Le persone erano meravigliate. They glorified God. E glorificavano Dio. And because they had never seen this before. Perché non avevano mai visto nulla del genere prima d'allora. Can we all close our eyes for just a minute? Possiamo chiudere i nostri occhi. Let's all think about somebody right now. E in questo momento pensiamo a quel qualcuno. Somebody that God puts in our path every day. Che Dio mette sul nostro cammino tutti i giorni. It might be somebody from work, it might be somebody from our neighborhood. Può essere un tuo collega di lavoro, può essere un tuo vicino. Somebody that we can share our story with. Qualcuno con il quale possiamo condividere la nostra storia. Somebody that we could invite to share a meal. Qualcuno che magari possiamo invitare a pranzare insieme. Let's get that person in our minds right now. Pensa a questa persona. And let's all make a commitment in this room. E che tutti quanti noi possiamo prendere proprio un impegno. That sometime over the next few weeks. Che nelle prossime settimane. That we will have the courage to tell our story or invite them to this place. L'impegno ad avere il coraggio di condividere la nostra storia con questo qualcuno o magari ad invitarlo in chiesa. Look up here again. Possiamo aprire i nostri occhi. I love you guys. Io vi amo. God loves you more. E Dio vi ama ancora di più. Your pastor loves you guys. Il vostro pastore vi ama. God loves you more. E Dio vi ama ancora di più. There is nothing he would like more than to have this place filled with people whose mats were brought into this place. Non c'è niente che a Dio piacerebbe di più di vedere questo posto pieno di persone che sono state calate davanti a Lui. God loved you enough to die for you. Dio ti ha amato al punto di morire per te. Do you love him enough to invite others to him. Tu lo ami a tal punto di condividere il suo amore con gli altri. Let's pray together. Preghiamo insieme. Lord, we love you. Dio, noi ti amiamo. You are our Father. Tu sei il nostro Dio. And on this American Father's Day, tu sei il nostro padre, e oggi in America è la festa del papà. We want to say we love you as our great Father. E vogliamo dirti oggi che noi ti amiamo come il nostro Padre celeste. But God, we know you love us. E Dio, noi sappiamo che tu ci ami. You love us when we make our mistakes. Ci ami quando commettiamo degli errori. You love us when we fail. Ci ami quando sbagliamo. God, we can climb up into your lap. E noi possiamo abbandonarci nel tuo amore. And be loved by you. E essere amati da te. Lord, I pray for this congregation. Signore, io ti prego per questa chiesa. God, that they would have the courage. Che tutti quanti possano avere il coraggio. To do whatever it takes. Di fare qualsiasi cosa sia necessaria. To tell their story. Per condividere la loro storia. And to go out to their one. E per raggiungere quel qualcuno. And bring them into the 99. E fare in modo che lui possa essere aggiunto alle 99. God, we pray that this church would be a light in this city. Gesù, noi ti preghiamo che questa chiesa possa essere una luce nella città. That when people hear about this church, che quando le persone ascoltano di questa chiesa, they will be amazed, che possano rimanerne stupiti, meravigliati, because they have never seen anything like this before, perché non hanno mai visto niente del genere prima d'ora. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.